È Giove tonante, abbiamo detto. E guardate che il nome di Giove viene esattamente dal sanscrito, perché abbiamo in latino il nome Jupiter, non è altro che Deus Pitar. Deus è cielo in sanscrito, Pitar è padre. Quindi vedete che il sanscrito non è poi tanto lontano dalle lingue neolatine. E c'è un monumento a Nuova Delhi, a Gandhi, dove c'è scritto Rashtra Pitar, cioè il padre della patria. Allora abbiamo questo nome sanscrito che in greco è stato tradotto, diciamo, Zeus, che è qua, è Deus, in latino Jupiter. Però, se noi decliniamo la parola, il nome Jupiter, abbiamo Jupiter Iovis, quindi vedete che si va a un altro, si ricorre a un altro nome, Jupiter Iovis Iovi, Iovem Jupiter Iove. No? Quindi c'è già una poligamia, diciamo, poligamia, un politeismo, diciamo, nella stessa declinazione del medesimo nome. Perché? Perché abbiamo sempre il riferimento alla religione indiana. E allora adesso pian piano entriamo nell'argomento delle caste. Beh, qual è lo scopo della vita umana? Ah, un momento, prima di andare avanti, un'altra precisa, una piccola precisazione. A proposito proprio di quella cosa molto interessante di cui parlava l'amico De Marchi. La Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita è quanto di più scandaloso si possa immaginare. Perché? Perché a un certo punto c'è un Dio che incoraggia questo bravo uomo, tutto sommato, ad ammazzare i suoi simili, no? Lui dice: ma no, ma io non vorrei ammazzare, qui c'è una battaglia da fare, io non la voglio fare, non voglio uccidere, la non violenza, eccetera, eccetera. Ed è proprio Vishnu, Krishna, che gli dice: no, no, tu devi uccidere. Perché? Perché stiamo attenti. La Bhagavad Gita è un'iniziazione ad una casta. Ed ecco che allora la casta ha le sue esigenze e può entrare anche in contrasto con certe ideologie, con certe mentalità, eccetera. Cioè è l'iniziazione alla casta degli kshatriya, è l'iniziazione alla casta dei guerrieri. Allora si spiega perché un dio dice ammazza che fai bene anche ad ammazzare. Poi chiarisce, dice: guarda che tu non riuscirai ad uccidere nessuno perché quello che è di immortale nell'uomo non viene, tu non lo puoi uccidere, non lo puoi sopprimere. Ad ogni modo, è diretta agli kshatriya questa ideologia, questi discorsi, queste spiegazioni. Ed ecco che qui si vede già l'abisso che passa tra una casta e l'altra. Perché quello che è vero per una casta non è vero per un'altra casta. Allora, qual è lo scopo della vita umana? Ce lo chiedono tutti. Ogni casta dà una risposta completamente diversa. E le parole sono kama, artha, dharma, moksha. Kama è la soddisfazione dei sensi, il piacere materiale. mangiare, bere, far bardoria, fare anche l'amore, ovviamente. E questo è lo scopo della vita che si prefigge la casta più bassa, quella dei Shudra. Shudra sono i lavoratori manuali, sono i servi, sono la classe oppressa. Poi sopra la classe oppressa abbiamo i Vaishya, ma vedete il foglietto che avete. Ah, guardate che io parto dal basso. Abbiamo i Vaishya, che sono i produttori, i commercianti, diciamo. Poi abbiamo gli Kshatriya, di cui abbiamo parlato adesso, che sono i guerrieri e i politici. E poi abbiamo i Brahmani. Però in italiano si dice bramini, allora usiamo questo termine. Allora, lo scopo della vita del Shudra è Kama, cioè il piacere, ma è il Kama Sutra. Il Kama Sutra è un trattato che parla appunto del piacere dei sensi, il piacere materiale, non soltanto del sesso, cioè sì, il Kama Sutra parla del sesso, ma sotto il termine Kama non c'è soltanto il sesso, c'è anche quel brav'uomo che vive per mangiare, insomma, che si fa le sue belle mangiate, che si scambiano le ricette, che si, insomma, ecco, anche il mangiare è Kama e è lo scopo della vita del Shudra. Oltre a quel livello lì non si va. Abbiamo l'Artha, secondo scopo della vita, e questo fa parte è lo scopo di vita della casta dei Vaishya, cioè dei produttori, dei commercianti. Ma guardate che oggigiorno siamo tutti produttori, siamo tutti commercianti, perché Artha è il consumismo, è il piacere di acquistare, è il piacere di impossessarsi di una cosa, è il piacere, il bisogno di appropriarsi delle ricchezze. Quindi questa casta qui ha come suo Dio il denaro. E non siamo mica... non occorre mica andare a 6.000 anni avanti Cristo per trovare gente che vive per i soldi, per la carriera, per il successo materiale, eccetera. No. Un altro salto. Gli Kshatriya, di cui parlavamo prima. Ma qual è lo scopo della vita dello Kshatriya? Il Dharma. Ecco, qui cominciamo già a andare a un livello un pochino superiore. Dharma che cosa vuol dire? Dharma è la legge, è la giustizia, è l'etica, è la morale. Gli appartenenti a questa casta erano anche guerrieri, ma erano anche governanti. Gandhi era della casta degli Kshatriya, no? Quindi questa casta ha proprio come pallino quello di una società giusta, una società che non faccia dei torti all'umanità. E vedete che le aspirazioni sono lodevolissime, ma non è che l'umanità di oggi sia arrivata a realizzare molto di questo programma. E neanche in India... oggigiorno l'India è quanto di più spaventoso e di più violento si possa immaginare, ma anche 1000 anni fa l'India non è che avesse risolto il problema della giustizia sociale o della giustizia in generale. Comunque, ecco, qui siamo arrivati al penultimo gradino, diciamo, prima di arrivare a quello dei Brahmani. I Brahmani o Brahmini hanno come scopo della vita moksha, la liberazione, cioè la realizzazione, cioè lo spirito, la spiritualizzazione dell'uomo, cioè buttarsi fuori dell'involucro materiale. E conseguentemente i bramani o bramini sono non soltanto la classe sacerdotale, ma anche la classe intellettuale, anche i filosofi. Ecco Platone a un certo punto fa un'analisi della società e mette a capo, al vertice della società, i filosofi. Sono i bramani. Per me Platone era profondamente indiano. Non, guardate che la distanza tra la Grecia e l'India non è poi così grande. I contatti con l'India ai tempi di Platone dovevano essere abbastanza intensi, tant'è vero che gli indiani chiamavano i greci, li chiamavano gli Yamana, no? Che viene da Ioni, gli Ionici, no? E c'erano ambasciatori greci in India, come sembra che ci fossero ad Alessandria ad Egitto indiani, ci fossero proprio una colonia indiana ad Alessandria ad Egitto. Alessandria ad Egitto era un po' la capitale dell'ellenismo, era piena di ebrei, ma era piena di gente, era piena di greci, di ebrei, di gente di tutti i paesi, e c'erano anche gli indiani. Quindi è lodevolissimo il programma che abbiamo, io vedo qui una professoressa di filosofia, che abbiamo nelle nostre scuole, comincia dai presocratici e da Socrate. Però bisognerebbe, oggi che abbiamo imparato tante cose, perché guardate che i libri indiani cominciano a essere, hanno cominciato a tradurli mica tanto tempo fa, si sapeva niente della cultura indiana, anzi gli europei erano convinti che fossero dei selvaggi questi indiani, no? Invece no, abbiamo da imparare tante cose. Io credo che tra non molto, nei programmi di filosofia dei licei, dovranno cominciare a parlare della filosofia indiana, quantomeno di Shankar, che è il più grande filosofo dell'India, da cui io penso che Platone abbia tratto tante cose, tante idee, tanti pensieri. Ma torniamo alle caste, perché sennò qui vi faccio saltare la cena. Allora, ripercorrendo il percorso delle caste e ripartendo dal basso, voi vedete che quando si parla di Shudra, secondo la mitologia, secondo la leggenda, gli Shudra sarebbero nati dai piedi di Purush. Purush è l'uomo, Dio, insomma è l'Adam Kadmon, l'uomo spirituale, l'uomo superiore, l'umanità, il divino dell'uomo. Ecco. Gli Shudra sarebbero nati dai piedi di questo Purush. I Vaishya, cioè i commercianti, diciamo dalle cosce, alcuni altri dicono dallo stomaco, ma voi capite benissimo che cosa intendevano, no? Gli kshatriya dalle braccia, perché è chiaro che è con le braccia che si combatte, e i bramani dalla bocca o dalla testa, no? Anche questo è questo simbolismo è abbastanza chiaro, ma guardate che il simbolismo rientra molto spesso in questa suddivisione nelle caste. Allora, vedete sulla prima riga si parla di stato di coscienza. E secondo la filosofia indiana, ma direi più che filosofia, la psicologia superiore indiana, e io mi riferisco in particolare a una delle Upanishad, la Mandukya Upanishad. Mandukya Upanishad vuol dire l'Upanishad della rana, no? Parla di quattro stati di coscienza. Noi viviamo almeno tre, di tutti gli uomini, almeno tre di questi stati. Lo stato di veglia, ed è lo stato più basso. In questo momento siamo tutti svegli. Poi viviamo lo stato di coscienza di sogno, che è quello della casta Vaishya. Lo stato di coscienza di sogno senza sogni, dove cominciamo a essere molto impegnati nello spirituale, perché cominciamo a non poter più controllare che cosa fa la nostra mente. Però secondo gli indiani ci sono dei momenti della notte in cui noi non sogniamo. Che cosa fa la nostra mente in quei momenti? Non lo sappiamo. Perché? Perché dal manas inferiore, manas è mente in sanscrito, no? Manas inferiore è quello che ci aiuta a vivere la vita di tutti i giorni e che corrisponde più o meno alla problematica shudra. Si sale al manas superiore, che è invece la razionalità, la mentalità filosofica, la fedeltà alla verità. Poi entriamo nella buddhi, da cui viene il nome Buddha. Buddha vuol dire l'illuminato, cioè è l'intelligenza illuminata, è la mente superiore che illumina l'uomo. Ma l'uomo non si rende conto, quando siamo nello stato di veglia non sappiamo che cos'è la buddhi. Ecco che allora lo stato di coscienza è quello del sonno senza sogni. Poi abbiamo, per la casta più alta dei brahmani, il massimo, dove siamo proprio al di fuori delle capacità umane, si chiama Turiya, no? Voi lo leggete qui. Turiya viene da quattro, il quarto stato. Loro dicono, non possiamo dare un nome, è il quarto stato. Di cosa sappiamo di questo stato? Niente. Soltanto chi è nella casta dei brahmini è riuscito ad avere qualcosa di questa esperienza del quarto stato. Io non vorrei approfittare troppo della vostra pazienza, per cui certe cose le lasciamo lì. Penso che tutto sommato le capirete leggendo, insomma. Forse il caso di soffermarsi un po' sulla casta dei Shudra. Perché? Perché, beh, mi dispiace dirlo, ma le religioni dei popoli, del popolo, sono la religione dei Shudra. In tutte queste religioni abbiamo il mito dell'eroe, perché il mito dell'eroe non c'è mica soltanto nella religione cristiana, c'è anche nella religione di Mitra, per esempio. Mitra moriva e risuscitava, no? L'eroe viene, è l'avatar, poi l'avatar sempre dell'induismo. L'eroe a un certo punto scende sulla terra, no? È figlio di Dio, non è figlio di Dio? Beh, questo ha un'importanza relativa, perché poi in definitiva i figli di Dio ti dicono: ma siamo tutti figli di Dio, no? Scende sulla terra, sì, quindi si incarna in un essere umano, soffre, si batte per la giustizia, muore e poi dopo la morte risuscita. Questo è il mito dell'eroe, che lo troviamo in una quantità di religioni. Ed è particolarmente importante questo mito dell'eroe per le classi inferiori, perché è un'iniezione di speranza. Cioè voi credete di essere dei paria, credete di essere gente che non vale niente? No, perché Dio si è reincarnato, si è incarnato sotto forma umana, quindi anche voi potete aspirare a diventare dei. Questo è fondamentalmente il messaggio delle religioni a livello Shudra. Guardate che se non ve l'ho già detto, ve lo ripeto. Ogni casta ha la sua religione, eh? Quindi diciamo che la religione, le religioni abbastanza vicine anche alla religione cristiana, ma l'islamismo, eccetera, sono religioni tipiche della casta dei Shudra per gli indiani. Se invece saliamo di livello, allora abbiamo un Dio che non è più personale, che non è più persona. Abbiamo un Dio impersonale che viene espresso e concepito sotto la forma del simbolico. Quindi è talmente lontano dall'uomo questo Dio che può essere visto solo come simbolo. E qui troviamo anche nella religione cristiana, perché per carità non pensiamo mica che ci siano confini ben delimitati tra una casta e l'altra. Anche nella religione cristiana abbiamo una quantità di simboli, no? E Dio chi è? È quel triangolo con dentro l'occhio, oppure con dentro le lettere Yod, He, Vav, He della ebraiche, che è il nome di Dio, no? Abbiamo una quantità di altri simboli, il sole, la luna, eccetera, no? Tutti questi simboli stanno a indicare la presenza di un Dio. La famosa stella a sei punte degli ebrei, no? Che poi sono due triangoli incrociati, no? Non è altro che il Dio, che Yahweh, visto dalla, se vogliamo usare un linguaggio del tutto inappropriato, ma serve solo per spiegare, visto dalla casta dei Vaishya della religione ebraica. Quindi hanno visto Dio in quella forma simbolica lì. Altro scalino, saliamo. L'Ikshatriya hanno un Dio eminentemente impersonale, no? Nel senso che è concepito e visto non più sotto forma di simbolo, che il simbolo diventa, è sempre un intermediario tra la materia e lo spirito, ma in forma eminentemente spirituale, ed è la verità giustizia. Guardate, c'è una dea egiziana, quindi anche la religione egiziana era, insomma, le religioni si assomigliano tutte, vanno sempre a finire tutte nello stesso punto. C'era la dea egiziana, una delle più importanti, la dea Maat, che è la dea della verità giustizia, perché non ci può essere giustizia senza verità, non ci può essere verità senza giustizia. Quindi diciamo, questa dea in certo qual modo impersona il concetto di divinità della casta degli Kshatriya, ripeto, guerrieri, ma anche politici, ma gente che si incarica, che soffre in modo particolare, diciamo, per le ingiustizie di cui è vittima l'umanità. Se Marx fosse stato indiano, sarebbe stato uno kshatriya, indubbiamente, perché ha affrontato quell'ordine di problemi. Brahmani, Beh, qui non si può più dire niente. Perché? Perché l'esperienza del divino è ineffabile, è inesprimibile. Il brahmano non è che mantenga vabbè, ogni casta deve mantenere il suo segreto, ogni casta ha la sua iniziazione, d'accordo, però a un certo livello il segreto si protegge da solo, si difende da solo. Perché? Perché è talmente ineffabile che non ci sono parole per manifestarlo. Quindi quelli che hanno avuto l'esperienza dell'iniziazione, diciamo, brahmanica, non la possono trasmettere per mezzo di parole, non la possono comunicare. Allora, questo percorso che vi ho fatto fare in due riprese potrebbe servire a chiarire una cosa, quantomeno a mettere in dubbio questa impostazione di casta che abbiamo noi, questa idea di casta che abbiamo noi. Noi pensiamo che sia uno dei segni più gravi della barbarie indiana. È vero. Perché? Perché c'è stata una degenerazione dell'istituto della casta, c'è stata una deviazione, perché nel momento in cui si è cominciato a trasmettere in via ereditaria i poteri della casta, abbiamo rovinato tutto. E la dimostrazione che abbiamo rovinato tutto è quando si va a vedere qual è il nome che gli indiani danno alla casta, no? Che dicono il colore, perché casta è parola portoghese. I portoghesi sono arrivati per primi là, hanno trovato questo sistema e hanno usato la parola casta, che vuol dire puro. Fra parentesi, incesto ha anche la stessa etimologia, è il contrario di casto. Quindi il colore serviva per proteggere la razza. È chiaro che arriva una razza bianca dal centro dell'Asia, questa è l'ipotesi, ma insomma penso che si possa considerare valide, trova dei neri là, li sottomette per impedire che ci sia un miscuglio di razze, per impedire di perdere il potere, creano il sistema delle caste, per cui un nero non potrà mai sposare una bianca, un bianco non potrà mai sposare una nera, ma questa è la degenerazione del fenomeno della casta. La prima era un passaggio, era una carriera, era un cammino iniziatico dall'uomo comune che era il Shudra, no? Si saliva poi al borghese, se vogliamo, ecco, no? Uno che aveva più o meno la mentalità razionale del borghese. Poi si andava sopra a quello che dall'individuale trasmetteva i suoi interessi verso il collettivo, no? E poi si arrivava alla casta dei bramini. A dimostrazione di questo, vorrei leggervi, sono poche righe, un passo di un'opera di una certa importanza per la storia del pensiero indiano. E il titolo è Yoga Vasishta. Vedete, c'è dentro la parola yoga. Quest'opera è un poema che sintetizza in parte il pensiero di Shankar, il grande filosofo di cui avevo parlato prima. Allora, in un passaggio dello Yoga Vasishta, qui leggo un'opera di un autore italiano che ha scritto proprio un commento alla Bhagavad Gita. In un passaggio dello Yoga Vasishta, composto di 27.000 versi, Sri Rama, cioè Dio Rama, chiede a Hanuman, il grande devoto, gli pone questa domanda: in quale modo tu mi adori? Ecco le caste. Ognuna delle quattro caste adora Rama, Dio, in una maniera diversa. Con questa domanda Sri Rama fa esprimere a Hanuman il concetto del divino secondo la dottrina tradizionale. Hanuman così risponde. Primo, partiamo appunto in basso. Questi sono i Shudra. Come, cosa risponde Hanuman? Finché conservo il sentimento di avere un corpo fisico, finché non mi è possibile liberarmi dall'idea della forma fisica, io sono vostro servitore. Io non sono che un misero organismo e un abisso insormontabile mi separa da te, Dio Rama. Allora è il primo, il più basso concetto di religione, di servizio divino. Saliamo di un gradino. E qui troviamo un po' di miscuglio tra le due caste, eh? Perché qui i gradini, i livelli sono tre, non quattro, e credo che sia anche giusto che i livelli debbano essere tre, ma questa sera non posso spiegarvi il motivo perché non c'è il tempo. Se al contrario, continua a dire Dio Rama, se al contrario il sentimento del corpo, se al contrario perdiamo il sentimento del corpo grossolano, mi ritrovo con una coscienza individuata. Parlo, utilizzo la mia mente e commetto errori. Quindi siamo a livello dell'intellettuale, diciamo, se vogliamo dire così. Mentre prima era il materialone, adesso è l'intellettuale. In questo stato io mi rendo conto che faccio parte del vostro corpo superiore, ho il sentimento della vostra immanenza, cioè lui sente una certa presenza del divino, no? Però commette errori, quindi non ha questa certezza, il dubbio lo attanaglia. E adesso entriamo nel campo eminentemente bramanico. Se mi elevo ancora di un gradino e domino completamente la mia mente, cosa tutt'altro che facile da fare, scopro in me, cioè nel primo caso ci si identifica col corpo, il shudra, il servo, nel secondo caso ci si identifica con la mente, con la propria mente, l'intellettuale, in questo caso vediamo con cosa ci si identifica. Se mi elevo ancora di un gradino e domino completamente la mia mente, quindi siamo sopra la mente, scopro in me un centro spirituale che né il pensiero né il linguaggio possono cogliere. Questo centro superiore che si pone al di là del mondo empirico è l'Atman. Atman, di cui ha parlato l'amico De Marchi prima, guardate che è lo stesso concetto dell'atmen tedesco, perché spirito vuol dire respirare, ruah Elohim in ebraico è lo spirito santo, perché ruah sia in ebraico che in arabo vuol dire soffio, vento, ma anche spirito, no? E quindi atman è il soffio, ma è anche lo spirituale, perché è chiaro che noi dobbiamo attaccarci a dei simboli per riferirci a cose che non rientrano nell'esperienza materiale di tutti i giorni. Quindi si va per analogie e si usa, appunto, si è usata la parola Atman, no? Questo centro superiore che si pone al di là del mondo empirico è l'Atman, è il sé. tra me e il voi non c'è più alcuna differenza, non c'è più alcuna distinzione, esiste solo Brahman e nient'altro che Brahman. Vi chiedo scusa se ho approfittato della vostra pazienza. Grazie.